Bene, il documentario di cui parliamo e di cui parlerà la regista si intitola Tell Me Iggy, raccontami Iggy, e il titolo è perfetto perché questo non è un classico documentario biografico sulla storia della carriera musicale di Iggy Pop, ma è un documentario della durata di 50 minuti, quindi sembra anche breve, ma in realtà ha tutto un suo percorso che è veramente perfetto. Io ho amato molto quel documentario quando l'ho visto, che è stato proiettato, come dicevamo all'inizio, al Biograph Film Festival, che è in corso a Bologna in questi giorni, esattamente martedì scorso, e io ho intervistato la regista prima della proiezione, che fra l'altro era un'anteprima mondiale, quindi non era un'intervista fra virgolette critica, cioè dopo aver visto il documentario, ma era proprio una presentazione. Raccontami insomma qualcosa di questo documentario per me e per tutti quelli che non l'hanno ancora visto. La regista si chiama Sophie Blondy, è francese e ha seguito Iggy negli ultimi 11 anni, ci racconta, e l'ha filmato spesso dal vivo, fino a quando non ha avuto l'idea, siccome è rimasta affascinata da questa persona da un punto di vista artistico e personale. Infatti dice: io non mi considero una vera e propria fan, ma sono veramente una sua cultrice come artista, e ha voluto proporci un ritratto molto personale di Jim più che di Iggy, o comunque di una crasi fra la persona pubblica e la persona privata che raramente si è visto. Quindi la prima domanda che io le ho fatto è stata: da come ti è venuta l'idea? You know, I knew Iggy for a long time, for 11 years, because we already shooting together. He explains that in the film you're okay. going to discover. And each year I followed him in many countries, in many concerts. I was shooting him, and I had this idea to do something of all the pictures I did. I wanted to do an intimate meeting with him and his friends and his partners, to do something more intimate, more deep, because it's an incredible artist and person. And I wanted to do something more sensible, more deep, more confidential. Esattamente quello che vi dicevo prima. Lei ci dice come ha voluto fare un ritratto intimo di questo artista, più confidenziale. Loro si conoscono appunto da un bel po', anche perché lei aveva già fatto un film dove aveva chiamato Iggy Pop come attore. Il film è uscito nel 2016, si chiama L'Étoile du Jour, con Denis Lavant, l'attore francese, e incredibilmente Iggy ha accettato questa parte perché lui ama molto l'attore Denis Lavant, quindi quando ha saputo che c'era anche lui nel film ha accettato, nonostante, e nel documentario si capisce, ha detto qualcosa tipo: mi pagate poco, però mi sto divertendo tanto, no? Quando ho fatto questo film, perché in realtà il budget di questa regista non era moltissimo, tanto che per farlo venire in Francia lei ha messo un assegno scoperto, ok? Addirittura, esattamente. E quindi l'idea originaria era proprio di non avere nulla a che fare con la biografia musicale, ma di trovare la chiave per dare un ritratto intimo di Iggy. Yes, I saw the documentary of Jim Jarmusch. It's quite different because it's about the Stooges. Me, it's about Iggy. It's not the same. It's completely different. And I saw all the documentaries about Iggy before. And when I proposed him, it was okay. And I do my best, because it was so hard to find the money. to find the partners and to meet all his friends like Debbie Harry, Blondie, like John Waters and Johnny Depp and Denis Lavant. And but step by step, with a lot of you need to be brave and to be to hard work yeah. to work hard. Yeah, difficult. So I think I was very honest, and Igil loves the films, yeah. And it was for me the most important. And I am happy because he loved really the film, and all the people knew Iggy, all the specialists of the Walking Wall and Stooges and the Stooges and Iggy. They discovered another level. You know, it's not a technician, the dates and all the things. Yeah. It's more open. It's really a confidential meeting, and from his soul and from his heart. Allora io le ho chiesto, quando lei mi ha risposto a questa domanda, che cosa aveva appunto di diverso il suo documentario da altri che sono usciti. In particolare ho fatto il riferimento a Gimme Danger di Jim Jarmusch, che è uscito nel 2016, e lei subito mi ha detto: guarda, l'ho visto Gimme Danger, però intanto quello è sugli Stooges, non è su Iggy, mentre io volevo concentrarmi assolutamente su di lui. E quando gli ho chiesto di poter fare questa cosa, lui è stato molto contento, e devo dire che ho cercato di essere molto onesta, anche se è stato difficile, perché quando fai un film ti devi relazionare con molte persone, con i soldi, che dice sempre non erano tantissimi, ma sono stati tutti entusiasti di questa parte, di questo lato che io cercavo di esplorare. E cita tutte le persone che parlano di Iggy in questo documentario: John Waters, Debbie Harry dei Blondie, Johnny Depp, che c'è molto, e naturalmente Denis Lavant, che è l'attore francese che dicevamo prima, Nick Kent, Pierre and Gilles. Sono vari personaggi, insomma, che portano la loro esperienza in questo documentario. Ma soprattutto lei ha detto: ho cercato di essere onesta, di mantenere fede all'idea che io avevo avuto all'inizio. Iggy ha rispettato molto questa cosa. When you do a film, it's difficult. You are not alone, and you have many people around explain you all the things, and you have to struggle all the time to keep your way and to be very honest. And that's a hard way. But I think I think I success in this way. Okay. In any time, we always can do better and better, of course, but I think I did my best, really, with all my heart. And what does Iggy says about it? He loved the film. He loved the film. And because I don't want only to do a documentary with old pictures and interview. I want to do some metaphor, poetic of the man inside. Okay. You know what it is when he face the ocean. It's like his face is public, and I wanted to try juice something deeper. You know, more sensitive. The man, the artist, the responsibility, his destiny. Why? You know, why, when you decide to become Iggy Pop, and he explains that in the documentary. Wonderful. Really, you are going to discover. Perché Jim ha deciso di diventare Iggy Pop? Questo è uno dei punti, no, che lei vuole esprimere attraverso il documentario. E una delle scene più belle è verso la fine, è quando Iggy, che abita a Miami, è parte del film, come dirà dopo, è girato proprio nella sua casa di Miami, è di fronte al mare e fa Tai Chi, perché è una disciplina che lui fa soprattutto prima di salire sul palco. È veramente una scena dove lui pare affrontare il suo destino, e il suo scopo della regista era di fare un film fondamentalmente poetico su Iggy Pop, e direi che insomma posso assicurarvi, visto che l'ho visto, che c'è riuscita. When we were in Miami, I was so happy. It was my first time in the United States, and it was incredible because I asked something to Iggy, the manager, say, oh, take care, no, it's not possible. Hey, when I asked to Iggy, yes, it's possible. We have a beautiful moment in the car when he's singing like that in the car, in his car. And when he is completely alone in the sea, he's like the man in his destiny, and it's the eternity of the... you know, when you did a film, you forgot, and the film is the strongest than me, you know. Okay. I follow the film. And there is, at the end of the film, when he's alone, he walks comes out on the sea. It is a type of human being. Of course, it's an icon, it's a star, but it's a human. And... it's the man's face, the eternity. Okay. And at this moment, I can cry every time to see him again and again. It's very emotional. Allora, io le ho chiesto quali sono stati i momenti in cui che si ricorda di più, i momenti più belli di quando ha girato questo film, e ne ha citati due. Uno, quando era in macchina con lui a Miami, fra l'altro era la prima volta che lei andava in America, che sembra strano da dire, però è così, e ci sono delle scene in cui si vede Iggy che guida una Rolls, fra l'altro decappottabile, a piedi scalzi, a piedi nudi, lungo il mare. E lì ha detto che è stato un momento veramente molto intimo, e anche perché ricorda come aveva a che fare molto col suo manager, naturalmente, al quale chiedeva posso fare questo, posso chiedere questo, e il manager diceva regolarmente o quasi sempre no, mentre quando lo chiedeva direttamente a Iggy, Iggy rispondeva sempre sì. Questo si può fare, questo si può fare, quindi ha facilitato insomma le cose, anche perché dice ad un certo punto è stato il film, cioè che dirigeva me, non io che dirigevo il film, cioè ha preso il sopravvento sulle decisioni da prendere, su come dovevo girare. E ritorna alla scena che avevamo citato prima, che è un altro dei momenti che lei ha amato di più, cioè Iggy in spiaggia che affronta, secondo la sua visione artistica, l'eternità di fronte all'oceano da solo. I think all his records are very interesting and different because he's changed in look, and he's always new. No, I think the best of Iggy is always the last one, record, the last one is very incredible one. The record before is free, so beautiful. He's very incredible and very open. He's very creative, incredible creative. Gli ho chiesto qual è il disco di Iggy che preferisce. Lei ha detto non ne ho uno, perché è talmente un creativo incredibile che è sempre andato avanti nella sua creazione artistica. Fa, per me il disco migliore suo è sempre l'ultimo è bellissimo, per non parlare del penultimo, ovvero Free, quello da cui abbiamo ascoltato il pezzo precedente. Quindi non sono in grado di dirti qual è il disco preferito, se non che sarà sempre l'ultimo. E se non ricordo male, nella prossima domanda le chiedo come affronta Iggy il tempo che passa. I think when we see Iggy, you forget. It's incredible because in the film you can see him at 17 and 20 and 22, and when I see him now, he's all the age together in himself. It's very a miracle, because when I am with him, I am with Iggy Pop, and it's so simple to speak with him. It's so easy. It's so beautiful. It's so... I think I can't explain what's happened. No, you explain it very well. Yes, because, you know, I was not absolutely a fan. I was very admirative, a lot of admiration for his work. When you learn, when you are learning to discover the records, his life, his way of mind, because he is a lot of integrity, and he gives all. You know, it's over only that an artist, a musician. It's more and more. It's more open. You know, that's the way I wanted to shoot in this film. Okay. Thank you very much. Yes, thank you. E allora all'inizio dice quello che peraltro mi aspettavo, l'età, adesso Iggy ha 76 anni esattamente, è qualcosa che non ti viene in mente quando parli o stai o guardi Iggy Pop. E nel film ci sono immagini di lui ventenne, venticinquenne, adesso in mezzo, ma in realtà è un tutt'uno, cioè non tutte queste età sono all'interno di Iggy e vengono fuori tutte quando lui si esprime, quando lui è sul palco, e soprattutto lei è affascinata dall'integrità di questo artista che non è solo un musicista ma un artista completo. Iggy è tutto, praticamente questo è quello che ci racconta, e dalle sue parole è evidente la totale fascinazione che lei ha subito, e non solo lei, da questo personaggio. Aggiungo io, dopo aver visto il documentario, che forse per alcuni può essere una critica, un peccato, non c'è nulla di negativo che venga fuori sul personaggio Iggy, ok? Ma addirittura, ma di questo parla anche lui, viene fuori quasi un personaggio ascetico, un guru, tant'è che viene raccontato, lui spesso si è tagliato, no, sul palco, e finiva i concerti insanguinato, e il giorno dopo le ferite erano quasi totalmente rimarginate, cioè, quindi stiamo parlando Padre Pio, insomma. Padre Pio, esattamente, no? E si è drogato tantissimo, come tutti sanno, anche se ormai una ventina d'anni che addirittura ha smesso anche di fumare, quindi c'è tutta questa parte che un po' è lasciata fuori, però si può anche definire una scelta artistica, visto che questa parte appartiene probabilmente ad anni molto più lontani di adesso. E un'altra cosa che viene fuori nel documentario, che io ho vissuto in prima persona varie volte ai tanti concerti di Iggy dove sono andata, che lui è uno, se non l'unico, uno dei pochi che è capace dal primo momento che esce sul palco di instaurare un rapporto personale, proprio diretto col pubblico, un rapporto quasi trascendentale. E così chiudiamo questa descrizione trascendentale di quello che per molti è solo un'icona punk, solo per modo di dire, e per altri invece è un artista totale e completo.